Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità di Irene Zerbini. Si può aprire oggi con un articolo della Costituzione? Il lavoratore ha diritto a una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, a sé e alla sua famiglia. Costituzione italiana, articolo 36. Buona giornata da Irene Zerbini, 16 minuti dopo le 8 e mentre per l'esercito dei lavoratori e dei giovani 1000 euro al mese costituiscono un miraggio, torneremo oggi a parlare invece di pensioni d'oro, perché questo è il paese dove convivono queste iniquità senza che sembra nessuno possa fare niente. Ma è veramente così? Dopo che si è deciso con la recente sentenza della Corte Costituzionale che perfino prelevare una piccola parte su queste pensioni d'oro arrivano anche a 90.000 euro al mese non è sostenibile sul piano della Costituzione, che fare dunque perché vengano rispettati tutti gli articoli? Di questo dibatteremo naturalmente alle 9 per... certo, scorrere l'elenco di coloro che percepiscono questi privilegi, sono 100.000, costano allo Stato 13 miliardi di euro l'anno, ma soprattutto per cercare di capire come si può correggere questa situazione che si è creata dal 1994, che ogni volta fa stracciare le vesti, come uscirne? Potete darci anche le vostre indicazioni, naturalmente, e accoglieremo tutte le opinioni. 800 24 00 24 è il numero di telefono che dovrete comporre. Alle 9 parleremo di pensioni d'oro. Ora invece andiamo a dare un'occhiata oltre confine. Dunque, questo dovrebbe essere l'inno nazionale belga. Dico bene, Hedwig? Sì, bene. Buongiorno, Hedwig Zedjic. Buongiorno. Hedwig Zedjic è una corrispondente che vive in Italia e racconta il paese naturalmente ai belgi e non solo, anche agli olandesi, perché gode di doppia nazionalità. E ci dispiace constatare che le ultime corrispondenze che ha vergato, non solo a Penna, ma anche per la radio e la televisione nazionale belga, hanno dato contezza ancora una volta di un aspetto dell'Italia piuttosto imbarazzante. Stiamo parlando di treni che non funzionano, non treni italiani, però treni che perdono pezzi proprio quando riusciamo anche a ottenere una commessa all'estero, si arrugginiscono, hanno problemi quando nevica. Ansaldo Breda, che era il fiore all'occhiello del gruppo pubblico Finmeccanica, non ha fatto sicuramente una bella figura in Europa. Ma raccontaci tu, cos'è successo? È successo che tra Belgio e Olanda hanno deciso di fare una trena ad alta velocità tra Amsterdam e Bruxelles, un collegamento molto importante tipo Roma-Milano. Ansaldo Breda ha vinto questa gara e ha prodotto questi treni ad alta velocità che si chiama FIRA in Olanda e in Belgio, è la V250. FIRA è come dire per noi Freccia Rossa? Sì, l'equivalente di Italo, sì, sì, insomma, sì. FIRA è la vostra sigla, FIRA V250, sì. E questo treno collegava Amsterdam e Bruxelles. Giusto, ha cominciato a viaggiare, però quasi subito c'erano, i primi tre mesi andava bene, però poi d'inverno ci sono state delle ondate di neve e là sono cominciati i problemi, come hai spiegato tu, il treno perdeva pezzi, porte che non chiudevano, alla fine hanno fermato il treno e dopo indagini con tecnici dell'Ansaldo Breda in Olanda, in Belgio, comunque non si sono messi d'accordo per sistemare tutti i problemi. I belgi hanno rotto come prima il contratto, seguito dagli olandesi. Prima i belgi hanno fatto il passo indietro e poi gli olandesi. Adesso questa tratta verrà coperta da dei convogli costruiti in Canada da Bombardier. Naturalmente immagino i conflitti legali siano ancora in corso, perché tra l'altro gli esperti belgi e olandesi vogliono recuperare anche i 120 milioni di euro che erano già stati pagati all'Ansaldo. Ma è chiaro, qualcuno che ha fatto un contratto di queste grandezze commerciali, se il contratto non viene rispettato, i soldi devono essere restituiti. Ovviamente ci sono ovviamente cause in corso, perché la difesa dell'Ansaldo Breda, che secondo me, avendo studiato anche le carte, non hanno del tutto torto, i problemi non sono del tutto loro, ma si tratta anche di un uso improprio, una manutenzione improprio del treno, e questa ovviamente è la responsabilità delle ferrovie belghe e olandese. E bisognerà dunque constatare quanto ci sia di viziato, diciamo così, in questa commessa, in quanto è stato fornito da parte di Ansaldo Breda, e quanto invece una manutenzione accurata, soprattutto in periodi di neve, avrebbe permesso a questi treni quantomeno di non perdere i pezzi, quantomeno di non arrugginirsi. E, tu ti sei occupata di questo varie volte. Quali sono gli altri aspetti che invece hai raccontato dell'Italia? Da quanti anni stai qui? Io sono qua da più di 15 anni e quando sono venuto qua, lavorando per la radio e la televisione belga, il capo della radio mi ha detto chiaramente che ci sono tre aspetti che interessa, che sono la mafia, il Papa e Berlusconi. Questo era così 15 anni fa e devo dire E che oggi ti occupi della mafia, del Papa e di Berlusconi, immagino. è proprio così. In prevalenza ancora. Cioè è cambiato molto poco per quel che riguarda le corrispondenze dall'Italia e poi delle situazioni particolari sui nessi, in questo caso commerciali, tra i due paesi. Noi anche del Belgio sappiamo poco perché sì, avete delle situazioni e delle caratteristiche piuttosto interessanti anche dal punto di vista linguistico. Per esempio, quante comunità linguistiche avete? Ufficialmente sono tre. Si parla neerlandese, la lingua fiamminga, come si dice qua in Italia, però la lingua è neerlandese, francese, al sud c'è una parte che parla tedesco. E quindi c'è anche una comunità francofona. La capitale è Bruxelles, dove noi a volte andiamo per questioni legate all'Unione Europea, e in realtà di questo paese piuttosto importante, interessante, si sa pochissimo, si trova pochissimo sui giornali italiani del tuo Belgio. Cos'è che vorresti far conoscere? Qual è un aspetto che tu potendo importeresti da questa parte? Ma quella che si dice sempre al nord è che il Belgio è il paese più mediterraneo del nord, e questo posso confermare dopo 15 anni qua in Italia. C'è molti aspetti che sicuramente gli italiani si troveranno benissimo in Belgio. Non è un caso forse che ci abitano anche tantissimi italiani, forse la comunità più La grande comunità più d'Europa. numerosa del Sì. Belgio è quella italiana. Quanti sono gli italiani che ci vivono? Oh, sai che non lo so, ma so che sono la maggior parte, la più grande comunità italiana al di fuori dell'Italia in Europa, stanno In qui. Europa, certo, perché poi è sempre difficile conteggiare gli italiani all'estero perché molti non si iscrivono all'AIRE, vengono naturalizzati completamente e non pensano di passare al consolato per registrare la propria presenza, soprattutto quando si parla di seconda o terza generazione. Per cui diciamo che il primato delle più grandi comunità al mondo se lo contendono Buenos Aires, Toronto e in Europa il Belgio, una presenza che risale agli anni della grande immigrazione. Tra l'altro, in Belgio, come sono stati accolti secondo te gli italiani? Che tipo di integrazione, soprattutto all'inizio, è stato molto difficile? Vabbè, quando stiamo parlando dei tempi delle miniere, là era proprio un accordo tra due stati per avere lavoratori economici che non è che venivano trattati molto, molto bene gli immigrati italiani. Proprio ieri si è ricordato l'incidente a Martinelle con tantissimi morti, di qua anche tanti italiani. Devo anche dire che il primo ministro, il presidente del Consiglio, è un immigrato, figlio di un immigrato italiano che lavorava nelle miniere, è morto non nella miniere ma in un incidente stradale, se non sbaglio, lasciando moglie e 7 figli. La moglie ha detto sempre che è sempre stato grato allo Stato belga che l'ha aiutato con pensione e dallo Stato italiano non ha mai ricevuto niente. Non è un caso che in Belgio il figlio suo, nato di un immigrato italiano, è potuto diventare presidente del Consiglio. Tanti italiani in Belgio dicono che questo in Italia non sarebbe mai accaduto, cioè un'emancipazione, un'integrazione che ti permette di scalare, diciamo così, i posti più importanti, non solo dal punto di vista professionale, ma proprio della rappresentanza nazionale nel giro di una generazione. Questo non sarebbe stato possibile qui per questioni che ancora vengono discusse tutti i giorni e spaccano il paese, legate anche all'acquisizione della cittadinanza. Come funziona in Belgio? È possibile mantenere due cittadinanze? Dopo quanto tempo gli immigrati possono chiedere di acquisire la cittadinanza belga? Guarda, si può acquisire la cittadinanza belga come qua in Italia, se hai legami, per esempio, come moglie, marito, dopo un tot di anni si può acquisire anche mantenendo la propria, se non ci sono problemi con il paese di origine, ovviamente. Per tanti anni io posso dire che mia madre è belga, però lei è andata a abitare in Olanda, sposata con un olandese. Mia madre non ha mai potuto votare né per l'Olanda né per il Belgio, perché in Olanda era sempre una straniera, avendo sempre la cittadinanza belga. In Belgio avevano una legge che diceva: se stai più di 5 anni fuori del paese non puoi più votare per il nostro paese. Questa legge è stata cambiata. Come in Italia adesso gli italiani che abitano all'estero possono votare per il governo italiano, adesso lo fa. Ma anche questo naturalmente sta suscitando molte perplessità. Tant'è che coloro che ne hanno il diritto spesso non usufruiscono di questo diritto, dicendo: io vivo all'estero, non è giusto che vada a determinare quello che poi il Parlamento o il Senato di un paese in cui non vivo e non so se vivrò. Quindi è un principio comunque che genera diversi interrogativi. Quello che noi ricordiamo dal De Bello Gallico dei Belgi, ricordiamo che Cesare fece notare che i Belgi sono tra i più coraggiosi del mondo. È ancora così? Sottoscriveresti questa frase? Ne siete orgogliosi? I Belgi ne vanno molto fiera, ed è una frase che mia madre mi ha sempre ripetuto. È anche una frase che nei fumetti di Asterix e Obelix ritorna. E anche questo è un aspetto che... Grazie per aver citato anche Asterix nel corso di questa conversazione, un riferimento fondamentale per moltissimi di noi. E ringraziamo dunque Edwin Zeggi, che è la corrispondente straniera, come avete sentito, belga, che vive a Roma per raccontare l'Italia. E domani non torneremo con questa chiacchierata con i corrispondenti, essendo il weekend. Da lunedì riprenderemo queste conversazioni. Tra pochissimo, alle 9, parleremo di prelievi per i redditi di pensione sopra i 90.000 euro al mese, potrebbero essere possibili o pensabili, ma prima andremo a parlare di danneggiamenti al patrimonio artistico nazionale, perché tanti si divertono a imbrattare, a danneggiare, a rompere addirittura quello che è il nostro patrimonio artistico. Ci ritroveremo tra pochissimo per capire le ragioni di questi gesti. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Pensioni d'oro, già infervorano gli animi, 349-238-6666, solo parlarne, solo nominarle. Il governo sta subendo proprio in questi giorni un pressing, perché qualcosa va fatto, bisogna pur mettere fine a questa sperequazione, anche se la Corte Costituzionale ci si è messa di traverso, ci segnalano in molti. E allora 800 24 00 24 sarà il numero di telefono al quale potrete esprimervi. Dalle 9 però. Ancora buongiorno da Irene Zerbini, tra poco andremo a parlare di vandali, proprio così. Firenze, lo sai, non è servita a cambiarla. La cosa che ho amato di più è stata l'aria. Lei ha disegnato, ha riempito cartelle di sogni, ma gli occhi di marmo del colosso toscano guardano troppo lontano. Caro il mio Barbarossa, studente in filosofia. Occhi di marmo, fate attenzione, sono moltissimi gli episodi che arrivano. Ora, questa era la canzone struggente di Ivan Graziani, Firenze, che arrivano dalla Toscana e non solo, e ci segnalano questo passatempo, non si capisce bene, poi cercheremo di capirlo anche con Filippo D'Averio. Buongiorno. Buongiorno a voi. Questo passatempo di vandali squinternati, squilibrati, vengono definiti nelle maniere più suggestive e più varie, poi chissà se c'è una ragione, se c'è un filo comune che unisce queste azioni, che insomma danneggiano a volte in maniera inconsapevole, a volte volontariamente, statue, opere d'arte. C'è un americano che recentemente ha pensato bene quasi di dare il give me five, di dare il 5 all'Annunciazione a Firenze, e questo atto un po' cretino, lasciatemelo dire, ha fatto sì che su questo gruppo scultoreo del 300 del povero Gianni D'Ambrogio sia stato staccato un dito, una notizia che ha fatto il giro del mondo, e poi la persona si è anche scusata, ha detto non si rendeva conto insomma della fragilità di quello che stava toccando, ma sono delle giustificazioni che lasciano perplessi quanto l'atto, secondo me. Subito prima al battistero era apparsa addirittura una scritta col pennarello nero. Questi sono i casi più recenti, ma non sono i casi più eclatanti. Filippo D'Averio, grazie per aver accettato di parlare con noi di questo che io trovo un mistero. Lei è critico d'arte, un giornalista, un conduttore televisivo, di queste cose si occupa da anni. Che idea sei fatto? La questione passa attraverso vari parametri psichiatrici. Uno è che c'è sempre stata la voglia della distruzione. Pensate alla damnatio memoriae che c'era nel mondo romano antico, quando un imperatore andava fuori moda, era morto, si buttavano giù le sue statue. Oppure pensi lei che durante la rivoluzione francese le migliaia di statue tirate giù dai frontoni, dalle pareti e delle chiese di Francia, no? Ma questo, però forse c'era, come dire, una motivazione politica di delegittimazione di quello che si vedeva come un potere che era un abuso oppressivo, ecco, cioè, ma il vandalo. Ma c'è una cosa molto bella dell'Italia, che fino adesso l'Italia non è stata vandalica. Cioè, noi possiamo camminare in certe strade, penso a Bologna, ma penso a molte parti anche dell'Italia del Nord, del Veneto, camminando sotto i portici dove ci sono ancora le testoline del IV secolo delle sculture dei capitelli, no? Dei portici. Sì. E nessuno ha mai pensato di salire di sopra con un martello e staccare la scultura per regalarla alla fidanzata per farne un presbapier. Ecco, non suggeriamo adesso. No, appunto, cioè noi siamo dei civili, in quanto abbiamo un rapporto di affetto con il nostro passato. Bello. E di rispetto. Siamo tra i più civili del mondo, questa è una cosa interessante. E infatti volevo chiederglielo questo, Filippo D'Averio, se calcolando che i 2/3 del patrimonio artistico mondiale sono sul nostro territorio, nonostante queste situazioni che ovviamente fanno accapponare la pelle quando accadono, pensi al battistero, pensi all'Annunciazione, in generale lei ci dà una pagella come nazione di rispetto, di amore. Esatto, nell'insieme. La gente, come si dice, le due G, la gente in Italia non va a staccare i pezzi, ha una sorta di rispetto ancestrale. Quando è che salta questo rispetto? Facciamoci un ragionamento semplice. Abbiamo cominciato quando si è cominciato a fare i graffiti sui muri, no? Quello che passa con la bomboletta, sì, e che segna una parete, perché lo fa? lo fa per lo stesso motivo per il quale il cane alza la zampa e orina. Cioè, lo fa per lasciare, bisogno, per lasciare un segno del suo esistere, per delimitare un suo territorio. Allora, in questo momento noi viviamo le due cose, cioè la gente vuole determinare il fatto che al mondo c'è stato. È una guerra contro l'anonimato esistenziale, quello che tocca il dito, quello che va lì sul muro e tenta di staccare un pezzo, e tutta gente tenta di appropriarsi di un bene comune. E magari anche di un titolo di giornale o di una trasmissione come questa. Sì, esatto, ma forse gli basta appropriarsi di un bene comune. È la stessa motivazione che porta molti ad essere presenti, cioè in un mondo che li rende anonimi. Allora, su questo bisogna proprio avere coraggio di fare una battaglia di civiltà, perché solo nel momento nel quale uno sente che è veramente suo, non lo ruba più. Quando lo sente come la roba di un altro, ci lascia sul segno o se lo porta via. Cioè, diciamo che le nostre città siano arrivate fino a ieri mattina sostanzialmente intatte, senza i vandalismi dei barbari, no? Oppure della rivoluzione francese. È dovuto al fatto che uno considerava questa roba qua una roba propria, cioè gli apparteneva in un qualche modo. Ora, questa appartenenza in un qualche modo è scomparsa. Bisogna lavorare perché la gente torni a sentire queste cose come robe proprie. Fili Daverio, la devo fare anche una domanda personale, ma gliela faccio tra pochissimo, visto che ha nominato le tag, i writers, ed dunque un fenomeno che comunque ha a che fare con un segmento della popolazione molto giovane. Ora, prima vorrei salutare Bruno Santi. Buongiorno Bruno Santi. Buongiorno a lei, buongiorno anche a Filippo Daverio, con cui ci si conosce da tempo. E Bruno Santi è consigliere dell'Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze, uno storico dell'arte, è stato soprintendente ai beni architettonici. Ora, voi recentemente avete avuto questi spiacevoli episodi che immagino vista anche la nutrita l'attenzione che i giornali fiorentini, website, organi di stampa locali hanno dato alla cosa, hanno suscitato un grande dispiacere alla popolazione. Condivide le ragioni espresse da Fili Daverio, cioè alla base di questi vandalismi, il pennarello nero sul battistero, e infatti volutamente non ripetiamo nemmeno cosa c'era scritto, perché se veramente la ricerca è d'attenzione, era una tag di un gruppo. Condivide le motivazioni? Forse viene meno il senso d'appartenenza per questi ragazzi, cioè quando l'opera d'arte si sente come propria, come un proprio patrimonio, non la si tocca, la si rispetta, anzi addirittura le si vuole bene, c'è un rapporto d'affetto. Ma da un punto di vista generale senz'altro sono d'accordo. Ora, i due episodi di Firenze, in particolar modo che riguardano il patrimonio dell'opera di Santa Maria del Fiore, sono abbastanza diversi come effetti e anche diciamo come cause. Una è stata un incauto avvicinamento della mano di questo visitatore americano, che poi ovviamente si è scusato, e ha una statua che aveva già un dito restaurato, quindi in qualche modo insomma l'episodio non è poi così grave, anche se effettivamente è un pochino più di rispetto, di attenzione nei confronti dell'opera d'arte poteva essere osservato. L'altro è un fenomeno diffusissimo, cioè quello delle scritte in qualche modo vandaliche, però ci sono anche dei capolavori da parte dei writers e dal punto di vista figurativo, che ha imbrattato il battistero, cioè il monumento più importante dal punto di vista sia architettonico ma anche della storia religiosa di Firenze. Cioè lei fa un distinguo, mi scusi sì. Bruno Santi, tra l'americano incauto che va a dare il 5 o a toccare la mano dell'Annunciazione e il ragazzo che invece aspetta che le telecamere siano girate o che ci siano pochi vigili in piazza, si arrampica e va a mettere la tag sul battistero. Cioè uno è intenzionale secondo lei e l'altro è semplicemente un incidente. Sì, esattamente così. In più c'è da dire che lei sa benissimo che c'è competizione fra i vari writers, no? Dove si arriva più in alto, dove si raggiungono diciamo così, luoghi inaccessibili, e questo ha pensato bene di scriverlo sul battistero, cosa che non era quasi mai avvenuta, anche se gli atti vandalici sono abbastanza comuni. In più devo dire che il turismo di massa certo non favorisce la protezione più assoluta dell'opera d'arte, specialmente a Firenze, dove si sa, pensi alla Loggia dei Lanzi o dell'Orcagna, come si vuol chiamare, che è veramente un museo all'aperto. Ecco. Come siete intervenuti per rimuovere questa scritta? Beh, dunque, l'opera di Santa Maria del Fiore ha degli operatori, dei restauratori propri, no? Che mantengono da secoli il patrimonio scultoreo e monumentale e artistico del complesso della Cattedrale di Firenze, Duomo, Museo, Battistero e Campanile. E quindi sono intervenuti naturalmente con la loro esperienza e la conoscenza della materia. Dall'altra parte, in tutti e due i casi, uno nel rimuovere con appositi solventi senza ovviamente danneggiare materiale lapideo sulla scritta, e l'altro rimettendo a posto il dito staccato della statua che già era stato sostituito in passato. E qual è stata la reazione della gente, quella con 3G come la nominava Daverio, di Firenze, di fronte a questi colpi, anche se riparabili, diciamo così, al patrimonio artistico della città? La reazione naturalmente più eclatante è venuta dalla stampa, dai giornali. Ora non so che cosa ne pensasse il singolo cittadino, anche perché l'episodio è due episodi, diciamo, sono avvenuti in una città abbastanza deserta dal punto di vista dei cittadini, anche se si dice che soltanto un fiorentino su due è andato in vacanza, e soprattutto il fatto che in quei momenti sia il museo sia la piazza del Duomo, insomma, è piena di stranieri. La reazione è stata forte soprattutto sui giornali, temendo ovviamente come si potrebbe dire, una specie di effetto a catena, no? Per di emulazione, qualcosa del genere può succedere, cosa che effettivamente a Firenze è successo, si pensi a molti danni che appunto le statue della Loggia dei Lanzi hanno ricevuto nel corso del tempo. Beh, ma si pensi anche alla Pietà di Michelangelo nel 72. Alla Pietà di Michelangelo, al colpo pazzo col colpo di martello. Ma quello è finito in manicomio? Degli artisti in competizione con gli artisti del passato, il Magiaro, l'ungherese, che ha tirato le martellate alla Pietà di Michelangelo in San Pietro, e il famigerato Cannata che ha colpito l'alluce del Davide. Il tre dita del piede del Davide di Michelangelo, questo era il 91, poi è tornato in azione perché ha danneggiato ancora. È tornato alla Galleria degli Uffizi, sì. Ma c'è stata anche la Guernica di Picasso che è stata presa di mira, la Sirenetta di Copenaghen, una storia incredibile, l'hanno decapitata più volte. È un altro fenomeno, se mi permette. Ma ne parliamo tra poco, perché vogliamo capire, perché sono psicologi, ci sono psicanalisti, sociologi che si interrogano ormai da anni sulle ragioni alle base di questi gesti, ma soprattutto capire come prevenirle. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. E l'attualità ci porta a parlare anche di questo, squinternati oppure artisti in competizione o writers in competizione tra loro, chi fa la tag più audace, quella più difficile da realizzare. Un po' era il timore, dopo che è apparso questo primo segno, che qualcun altro provasse a fare, a violare, a spingersi ancora oltre, come è già successo, sì, ci segnalano gli ascoltatori, anche la Gioconda, non l'abbiamo nominata tra le opere d'arte prese di mira, attaccata con l'acido, questo già nel 1956, e nel 2009 una russa, in questo caso le aveva scagliato una tazza, era molto arrabbiata di fronte al quadro di Leonardo. Ma perché tanto odio? E poi, è giusto proteggere le opere d'arte con capsule, vetri antiproiettili, telecamere, o invece vale la pena di accollarsi il rischio e alimentare quel senso di appartenenza che ci diceva prima Filippo Daverio? Non è mica una questione facile, perché se uno va a vedere la Gioconda oggi al Louvre, sembra di guardare un'ostrica, cioè una cosa che non si riesce a percepire perché dietro un vetro di 4 centimetri. Ha un senso, chi lo sa. Cioè, è vero che la Gioconda poi sarebbe uno degli elementi più facili da colpire perché più mitici, ma nello stesso museo al Louvre sono le cose molto più importanti, a dire la verità, oppure altre. Certo, ma questo ha un particolare. E non sono protetti, ma questo sembra che susciti diverse reazioni. Si pensi anche all'italiano che l'aveva rubata nel 1911, esatto, per portarcela a casa. Ci sono delle opere che generano in un qualche modo una reattività, no? Sì, ci sono quelle che fanno arrabbiare più di altre. Ovvio, la Pietà di Michelangelo, cioè sono quelle che sono diventate miti pop. Più un'opera è un mito pop, più corre il rischio di essere presa di mira. Sì, presa di mira. Ma in generale tutto il patrimonio è un mito pop. Cioè quello, diceva proprio, quello che sale e prende la testolina la stacca, no? Quello che, essendo lui, questo è un appropriatore, pensa che due anni fa, no, quattro anni fa, uno dei più grandi pezzi di patrimonio piemontese, sculture, che era il gruppo di sculture di Europa, del santuario di Europa, uno è entrato in queste cappelle dove queste sculture antiche hanno cominciato a staccare tutte le teste, se le portate via. Quello pensava di guadagnarci dei soldi, ma c'è sempre questo fenomeno bizzarro che l'opera d'arte è considerata una roba che non appartiene a nessuno, resto lius. Essendo resto lius, posso portarmene via un pezzo, posso riappropriarmene scrivendo sopra Piero, Giuseppe o quello che voglio, che è il mio nome, no? Posso in un qualche modo rimettere la mano su una cosa che è di una comunità alla quale sento di non appartenere. Fenomeno. Quindi lei è un po' meno stupito del fatto, per esempio nel caso dell'Annunciazione, che a danneggiare il dito sia stato un americano che poi ha detto io non sapevo, non mi rendevo conto. No, l'americano poveretto non è colpevole, è tonto, lui, lo perdoniamo, lui è un fenomeno è tontolone, non è grave lui, è grave quello che è successo, ma si può riparare. E poi non è che ha preso il dito e se l'ho messo in tasca, l'ho portato a casa per intingerlo nell'inchiostro e dire ho scritto col dito della Madonna. No, semplicemente voleva così appunto condividere la sua gioia con questa Annunciazione, dargli il cinque, una goliardata se vogliamo. Sì, ma lei... no, sì, era un buon tempone americano, un po'. Gli americani fanno queste cose qua per gioia, come quando bombardano, non è tanto, lo fanno perché è allegro farlo. Ma poca consapevolezza secondo lei. Fili D'Averio, lei prima parlava di questo elemento molto importante dell'appartenenza, però dice attenzione, l'Italia in generale possiamo essere contenti di come ci comportiamo col patrimonio artistico, abbiamo un rapporto d'affetto, quasi d'amore. E lei che ha scelto questa strada, perché poi per tutta la vita ci si è dedicato, in realtà anche come studi ha una formazione, prima liceo scientifico, poi economia. Cos'è, qual è l'episodio che da piccolo probabilmente l'ha fatta innamorare dell'arte? Cosa ha contribuito ad alimentare questa sensibilità artistica e cosa si potrebbe soprattutto trasmettere ai giovani oggi? Nel caso mio era un po' un fenomeno familiare. Mio padre, che aveva un grande affetto e talvolta così una passione per comprare delle cose comunque per andare a vedere, e da lì passano poi ai... è un fenomeno di famiglia, e poi l'atmosfera che c'era allora, gli amici da ragazzo che seguivano con passione il mondo dell'arte, e uno poi si infila dentro e si fa pregare, perché è una sorta di posto magico nel quale uno entra e poi dopo, quando una volta che è dentro, ci rimane. Cosa bisognerebbe fare oggi? Avere questa possibilità di introdurre tante persone nel bosco magico. Il bosco magico affascina. Noi lo facciamo poco in Italia, lo facciamo poco, la comunicazione è fragile, la stampa se ne occupa, la televisione ci prova ogni tanto. Però è difficile riprodurre la magia. Sì, sì. Bruno Santi, lei che in un bosco magico vive perché è consigliere dell'Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze, e cos'è che può alimentare secondo lei questo innamoramento verso il bello, verso l'arte nei ragazzi? Lei ha a che fare con giovani fiorentini solitamente, e prima ha fatto un distinguo interessante, ha detto: al momento dello sfregio del battistero di gente di Firenze in quella piazza ce n'era poca, come a dire che se ci fossero stati loro non sarebbe successo. Dico bene? Probabilmente non è così, perché naturalmente ciascuno di noi cittadino non è che possa trasformarsi immediatamente in una guardia. Io devo dire che il sentimento più diffuso fra i fiorentini, non so fra i giovani, perché purtroppo ho abbandonato da molto tempo quella fascia d'età, e anche i rapporti naturalmente, e devo dire che c'è una sorta di affetto per la città e per il suo patrimonio, che ovviamente è un patrimonio importante, è importantissimo da certi punti di vista, anche se effettivamente l'elemento che più attrae è quello rinascimentale, che copre un piccolo spazio di tempo nella vicenda storica della città. Comunque sarebbe davvero importante, fra l'altro, che vi fosse, come ha sottolineato appunto Daverio, una maggiore comunicazione, ossia anche dal punto di vista dell'informazione, far conoscere che cosa ha significato quella storia, non soltanto dal punto di vista estetico, ma proprio della storia generale, della storia della cultura, della civilizzazione, vorrei dire. La creazione di questo patrimonio, che poi è irripetibile, come giustamente ha detto lei, insomma, non è che si possa sostituire il tutto con dei cloni o delle repliche o delle copie. Occorre instillare la consapevolezza che questo è un patrimonio che non si può più ripetere, e che quindi deve essere obbligo, dovere, coscienza di tutti saper conservare nelle migliori maniere possibili. Comunque tranquillizziamo gli ascoltatori, è stato i due danni da cui siamo partiti, quindi il dito staccato dell'Annunciazione, sì, e la scritta al battistero, sono stati ripristinati? Sono stati prima di tutto rimediati in modo efficace e veloce, e quindi nessuno che non conosce l'episodio, se torna, non si può immaginare che cosa sia avvenuto. E questo è, devo dire, grazie anche alla grande esperienza dei restauratori, in primo luogo dell'Opera di Santa Maria del Fiore, ma anche, allargando un pochino il contesto, del ruolo che Firenze ha nel restauro, nell'attività di restauro generale. Basti pensare, insomma, alla secolare vicenda dell'opificio delle pietre dure, della sua importanza in questo campo, addirittura in ambito internazionale. Grazie Bruno Santi. Fili Daverio, vorrei chiederle, questo writer è ancora anonimo, nel senso non è stato preso, ma secondo lei questo ragazzo, immagino sia un giovane, dovrebbe, a cosa lo condannerebbe? Cioè è l'approccio punitivo che può risolvere un problema di questo genere? Verso, non c'è verso. Cosa farebbe? Spiegargli che è idiota. Ah, così, cioè proprio sì. Diplomatico. La condanna più seria è il cappello confitto su asino, per il pubblico ludibrio. Quello che loro cercano è il pubblico riconoscimento, perché in fondo dei grandi problemi di oggi è quello dell'anonimato. Bisogna che il pubblico riconoscimento diventi pubblico ludibrio. Quindi niente carcere, niente lavori sociali, gite dentro gli Uffizi fino a mezzanotte. Bisogna urlare più: idiota, cretino, idiota. È il pubblico ludibrio l'unica cosa, ma è però poi l'imbarazzo, l'agonia mediatica quasi. Esatto, però poi per gli altri che stanno per farlo, in qualche modo non è la repressione dell'uno che educa gli altri. Gli altri vanno veramente informati, cioè gli va spiegato che quella roba lì appartiene un po' a tutti, che è peccato, è stupido, ma che peccato averlo fatto. è quello che va spiegato. E poi in realtà va generato di nuovo questa relazione di appartenenza al territorio e al nostro patrimonio artistico. Che c'è sempre stato, che stiamo perdendo. Grazie mille, grazie Fili Davvero. Salute a Santi. Grazie. A Santi, consigliere dell'Opera di Santa Maria del Fiore di Firenze, abbiamo discusso di questi danneggiamenti quasi inspiegabili, vandalici che costantemente tornano ad apparire così sulla stampa, soprattutto in occasione dell'estate. Sembra siano in qualche modo inestinguibili questi stimoli che portano la gente a decapitare la Sirenetta di Copenaghen o a danneggiare la Gioconda. Perché? E avete sentito anche quali punizioni esemplari forse combinare per fermare il fenomeno. Noi tra poco parleremo di pensioni d'oro. 800 24 00 24, ce ne state segnalando tantissime, soprattutto vogliamo capire come correggere questo principio di iniquità che le ha rese possibili. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Io comincio col ringraziare per la pazienza Carmelo Lauricella in regia, Roberto Scaltritti con lui e soprattutto gli autori di questa trasmissione, Benedetta Acri e Luca Cremonese. Si sta per concludere una settimana e si chiuderà in modo rovente, devo dire, perché stiamo per affrontare il tema delle pensioni d'oro. Cerchiamo di aggiungere qualche informazione rispetto a quelle che già abbiamo in questi giorni collezionato sui giornali. Per esempio, Mauro Sentinelli, il pensionato più dorato d'Italia, con un reddito mensile di 91.337,18 euro al mese. Bastavano quei 337,18 poi per adeguarsi alla situazione di una platea foltissima di italiani. Ecco, questo Mauro Sentinelli in questi giorni si vede sempre descritto come colui che gode dei maggiori privilegi, perché in testa alla classifica di questo esercito di pensionati d'oro. E pensavo, però, il secondo nemmeno lo si conosce. Ha un vitalizio molto ricco, che stacca di parecchio quello di Sentinelli, però percepisce 66.000 euro al mese. Il secondo, Mr. X, non abbiamo ancora dato un volto, un nome a questo anziano, pensiamo e speriamo, privilegiato. Questa classifica, che è stata resa nota in questi giorni, ha portato a conoscere anche Mauro Gambaro, un novarese a 67 anni, ex direttore generale di Interbanca e dell'Inter Football Club. Per lui il vitalizio è poco meno di 52.000 euro al mese. Dietro di lui c'è Alberto De Petris, ex Infostrada ed ex Telecom, che incassa 51.000 euro, tallonato in qualche modo dal manager specialista della componentistica elettronica e dei semiconduttori Germano Fanelli, 65 anni, poco sotto i 51.000. Marco Loconte, redattore del Sole 24 Ore, responsabile del sito web, per aver pubblicato questi nomi si è visto ieri, l'ultima volta che ho controllato. Marco, innanzitutto buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ti sei visto condiviso, diciamo così, da 23.000 persone. Questo l'ultima volta che ho controllato ieri sera, poi non so se nel frattempo ancora più gente ha pensato bene di far volare questa classifica con nomi e cognomi dei privilegiati. Ecco, secondo te sono solo, come dice qualcuno anche ai nostri sms, dei forcaioli? Questa è solo demagogia? Queste 24.000 persone indignate che hanno condiviso il tuo articolo con nomi e cognomi, da cosa sono mosse? Beh, è chiaro che vedere queste cifre stupisce. Perché in assoluto sono molto alte, sono altissime, sono veramente fuori misura rispetto ai redditi pensionistici della stragrande maggioranza degli italiani, per cui colpiscono emotivamente. Nascono come? Tutti si chiedono poi alla fine, ma com'è possibile? Com'è stato possibile? Beh, semplice, in realtà. Il sistema retributivo era un sistema, perché è stato messo in pensione, è il caso di dirlo, era un sistema che è molto generoso e calcola la pensione in base agli ultimi stipendi, anche all'ultimo stipendio. Ed è un sistema che appunto non regge, non, solo che è stato messo in pensione con molta calma, gradualmente, e quindi chi è andato in pensione anche negli ultimi anni, negli ultimi 15 anni ha beneficiato di questo sistema, che sostanzialmente dice: se tu hai guadagnato X, andrai in pensione con il 60, 70, l'80% dell'ultimo stipendio. Cosa accadeva? Accadeva che nell'ultima fase dell'attività lavorativa di molte persone si assisteva a delle accelerazioni, a volte non casuali, che portavano concordate, delle gonfiature delle ultime buste paga, così che si potesse usufruire a vita di un emolumento che non corrisponde ai contributi versati nel resto dell'esistenza lavorativa. Dicevo prima di Mauro Sentinelli, perché così ieri, mentre studiavamo questo tema, approfondivamo, pensavo, questo ora il suo nome viene rimbalzato su tutti i giornali in questi giorni, e certo è in testa alla classifica dei privilegiati, ma ce ne sono molti altri. Perché quanti sono questi che usufruiscono di pensioni d'oro? Ecco, che cosa tu intendi per pensioni d'oro? Perché pensioni d'oro possono essere anche, per esempio, qualche giorno fa ho calcolato, abbiamo preso dei dati elaborati, per cui poco più di 900.000 italiani guadagnano più di 3.000, poco più di 900.000 italiani incassano una pensione superiore ai 3.000 euro al mese. È d'oro una pensione di 3.000 euro al mese? Secondo alcuni sì, secondo altri no. Prendiamo il discrimine dei 90.000 euro lordi annui. 90.000 euro lordi annui è una bella cifra, e sì, diciamo che riguarda circa 900.000 persone in Italia. Non sono pochissime, l'Italia è un paese che spende tantissimo in pensione, spende qualcosa come il 14% del PIL, in crescita, ormai siamo al 15%, non c'è paese europeo industrializzato che spende così tanto in pensioni. Poi possiamo discutere della distinzione tra spesa pensionistica e spesa assistenziale, perché la pensione minima che viene erogata a chi non ha altri redditi è assistenza sostanzialmente, non è pensione, cioè retribuzione di una rendita in base a contributi versati, è un'altra cosa. Lo Stato, la collettività si occupa di chi è povero, sostanzialmente di chi ha poco di cui vivere, e quindi in qualche modo fa un'operazione di welfare primario. Quindi tre pensionati su quattro percepiscono assegni sotto i 1.000 euro, mentre noi parliamo di queste cose. Secondo il rapporto annuale dell'INPS, quindi non una fonte estranea, il 47,2% delle pensioni INPS ha importi inferiori ai 500 euro mensile. Tornando a Sentinelli, no, che mi ha tolto il sonno stanotte, perché mi chiedevo, è giusto far rimbalzare sempre questo nome? Questa mattina ce lo troviamo sulla Stampa che dice: non si violano i diritti acquisiti, mettete una patrimoniale, non è giusto violare i diritti precostituiti e contrattualizzati a cui corrispondono contributi versati in un'intera vita lavorativa. È proprio lui che parla, uno dei 10 pensionati più pagati d'Italia con questo assegno che è vicino ai 45.000 euro lordi mensili. Ora, di fronte a questo ribadire la protezione dei diritti acquisiti, molti si sono chiesti, erano diritti acquisiti anche quelli di coloro che si sono visti bloccare l'adeguamento delle pensioni fino a 1.400 euro al costo della vita, per esempio. Perché lì si è potuto mettere mano e altrove no? Beh, perché l'adeguamento è un meccanismo che viene sottoposto a revisione periodica, mentre la costruzione di tutta una rendita pensionistica viene fatta al momento del pensionamento e lì rimane, e viene fatta in base a una normativa che non viene cambiata perché era in vigore fino a quel momento. Quindi non è possibile cambiare retroattivamente il reddito pensionistico di una persona perché cambiano le regole. Puoi cambiare una parte piccola che è l'adeguamento al costo della vita, ma il punto è non giuridico, il punto è l'equità, cioè il sistema pensionistico deve essere, dicono gli organismi internazionali, deve essere sostenibile perché le erogazioni devono essere sostenibili nel tempo, devono essere sostanzialmente anche eque perché le generazioni non devono pesare le une sulle altre e devono essere moderne, cioè il sistema deve essere operativo, deve essere flessibile. Questo in Italia lo è fino a un certo punto, nel senso che sono abbastanza generose rispetto agli altri paesi le pensioni italiane, almeno per una fascia imponente di cittadinanza pensionata. Ma perché altrove, Marco, sono concepite le pensioni come certo, un sostegno e all'individuo così che possa continuare a vivere una vita dignitosa, e poi il meccanismo è quello del a tutti un minimo, una soglia, il resto se tu nella vita hai guadagnato di più avrai anche accantonato di più, ci sono meccanismi di per esempio deduzione fiscale che favoriscono l'accantonamento, certo, da parte di, cioè, sono tantissimi modelli, ma al di là di paese, questo ogni paese al mondo ha il suo sistema previdenziale, certo, ogni paese lo costruisce in base anche all'abito mentale, alla cultura di quel paese. Chiaro che ma non, nessun paese nei G8 ha 3 pensionati su 4 che percepiscono assegni sotto i 1000 euro e quasi il 50% sotto i 500 euro mensili. Cioè paragoniamoci a questi. Nessun paese del G8 ha ancora una situazione di questo genere. Forse perché quando è stato concepito il sistema pensionistico la piramide contributiva era ribaltata rispetto ad oggi. Beh, diciamo che appunto è stato messo in pensione il sistema retributivo perché era insostenibile. Era sostenibile finché si facevano tanti figli e finché la piramide era costituita da, cioè se, potete immaginare, anche se siamo in radio, a tante persone che entrano nel mondo del lavoro, e entrano tante magari, ce l'auguriamo, lo era così in passato, adesso un po' meno, e producono reddito per chi, per quelle poche persone che erano in pensione. Dopo il 70 la natalità in Italia è scesa parecchio, si fanno molti meno figli, l'ingresso nel mondo del lavoro avviene dopo e avviene in una misura inferiore rispetto al passato, e questo provoca uno scompenso notevole. Quindi già dagli anni 70 e 80, se, visto che la cosa non avrebbe retto, la riforma dei primi anni 90, Amato prima e Dini dopo, hanno posto la parola fine al sistema retributivo, ma è stata posta la parola fine gradualmente, ossia si è detto questa cosa qua entrerà nel sistema contributivo che è più equo sostanzialmente, anche con qualche difficoltà, ma sostanzialmente più equo, entrerà in vigore gradualmente nel 2024 in maniera definitiva, e questo ha fatto perdere di vista la necessità di mettere subito mano al sistema, come invece è accaduto in Svezia. L'anno dopo in Svezia hanno copiato il sistema italiano, però l'hanno fatto entrare in vigore subito, immediatamente, in maniera draconiana, fregandosene magari anche di alcuni aspetti tecnici e di alcuni aspetti di carattere, diciamo così, costituzionale. Però in effetti è stato un sistema molto più efficiente che ha consentito di costruire uno di quei modelli di welfare anche integrato che è stato studiato, adesso sta cambiando, ma insomma ha retto per 20 anni in maniera assolutamente adeguata. Marco, hai ancora qualche minuto per rimanere con noi? Dimmi. E noi vorremmo ora dare la parola ad alcuni degli ascoltatori, perché sono tantissimi quelli che hanno riflettuto su questo tema e vorrebbero non solo esprimere la propria indignazione, la propria rabbia, questa è cosa scontata, ma dare dei suggerimenti. Sentiamo all'800 24 00 24 che abbiamo in linea da Brindisi. Pronto, buongiorno. Buongiorno, un saluto a tutti, complimenti per la trasmissione. Inutile ribadire l'indignazione e la rabbia di persone che normalmente lavorano, pagano tasse, contributi e poi non si sa fra qualche anno se mai vedranno una piccola pensione. Veniamo al concreto dunque. Veniamo al concreto. Pochi giorni fa, fra i tanti arrabbiati cittadini italiani, ho messo sulla rete una petizione dal nome Basta Casta, che al sito di firmiamo.it in pochissimi giorni ha raccolto oltre 3.000 firme. Questo è il discorso che si aggiunge a quelli giusti già osservati detti da voi per quello che riguarda l'inequità del sistema ormai in Italia, che non reggerà più, perché non esiste che i giovani e noi compresi dobbiamo continuare a pagare le parassite rendite di questa gente qua. Allora, se noi continuiamo a discutere di Costituzione, sì, di articoli, dico, non ne usciamo, perché non è questa la strada ormai. Siamo troppo oltre quello. Cioè, non nascondiamoci dietro le procedure. Non nascondiamoci dietro le chiacchiere. Ci vuole una soluzione politica. Esatto, lì dove noi diciamo, come cittadini normali e onesti di questo mondo, che per esempio la misura di 5.000 euro nette, mensili, sono una giusta retribuzione anche pensionistica. Quindi per un coloro tetto. Che probabilmente, come ha detto lei giustamente prima, nella vita hanno guadagnato tantissimo. Grazie. E io mi chiedo, ma quanto sono stati bravi questi signori? Grazie. Ma sono nati tutti scienziati. L'Italia è diventato il primo paese al mondo con queste menti eccellenti. Grazie, non grazie Maurizio. Scusi, la devo invitare alla sintesi per poter dare voce il più possibile a un numero ampio di interventi. Rocco Tiso, buongiorno. Pronto? Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori di Radio 24. E Rocco Tiso è presidente della Confeuro e di Over 50. La invito a saltare a pie pari l'elemento, è chiaro, indignazione e rabbia in qualche modo. Cosa si può fare per uscirne? Guarda, andiamo sul concreto e sul pratico, sì, perché le lamentazioni, le proteste, le parole volano. Qui bisogna fare una sola cosa, bisogna fare una volta per tutte la riforma delle pensioni. E mi spiego meglio, se il 50% dei pensionati italiani deve vivere con meno di 1.000 euro al mese e di questo 50% l'altro 50% con meno di 500, in un paese che si dice nel G8, che si dice democratico a livello occidentale, non si vergogna, lo stesso presidente dell'INPS non si vergogna a presentare la lista dei 10 paperoni pensionati d'Italia. È uno schiaffo morale, non ai ricconi, non è uno schiaffo morale agli italiani che ancora oggi hanno il coraggio di chiamarsi tali e si sentono italiani sotto tutti i punti di vista. Per cui la dobbiamo smettere di fare chiacchiere, di fare parole tutti lei. Facciamo una riforma delle pensioni e prendiamo in considerazione i nuovi coefficienti di calcolo per determinare le pensioni integrate al trattamento minimo e le pensioni sotto i 1.000 euro. Noi abbiamo presentato, come organizzazione abbiamo presentato un disegno di legge di iniziativa popolare nel quale abbiamo proposto che la pensione minima a qualsiasi pensionato non poteva essere inferiore ai 1.000 euro. Benissimo, l'abbiamo presentato. Abbiamo raccolto 70.000 firme, le abbiamo presentate e praticamente chiusa la legislatura è andato tutto a mondo. Quindi qui, se vogliamo parlare di pensioni, dobbiamo essere realisti e pratici. Realisti e pratici. Rocco Tiso, lei è stato molto pratico e molto concreto e la ringrazio per questo. Il valore totale di questi assegni sfiora i 3 miliardi e 3. Sto sempre tornando a parlare di quei 33.000 che pesano molto però sul sistema pensionistico, perché il valore totale dei loro assegni sfiora i 3 miliardi di euro, anzi li supera decisamente, di coloro che percepiscono una pensione superiore ai 90.000 euro lordi annui. Questo è il punto di discrimine a cui fanno riferimento il drappello di chi prende in esame questo fenomeno, perché come tale va descritto. C'è anche stata una questione di costituzionalità sollevata su una proposta. La casta degli intoccabili sono stati salvati in qualche modo, ci ricorda anche Fabio Pavesi sul Sole 24 Ore, da una sentenza della Corte Costituzionale. Marco Loconte, cos'era successo? Ma sostanzialmente sostanzialmente hanno provato a fare un prelievo da queste pensioni d'oro, ma appunto la Corte Costituzionale, come accennato prima, ha sentenziato che quelli erano diritti acquisiti e non erano quindi scalfibili, perché una legge quando è in vigore prevede che venga applicata. Parentesi, il presidente dell'INPS non credo che si diverta a decidere lui i coefficienti o i valori da erogare, lui applica la normativa dice quello sostanzialmente. In realtà proprio abbiamo pubblicato l'altro ieri sul sito del Sole 24 Ore un intervento di Cazzola in cui si identifica una possibile strada per ritoccare quelle pensioni senza intaccare i diritti acquisiti e quei principi che la Corte Costituzionale giustamente difende. Un riferimento a quanto detto poco fa dall'altro interlocutore, sarebbe bello alzare le pensioni a tutti e in maniera anche rilevante, il problema è chi le paga poi quelle pensioni più alte, perché le pensioni si pagano con la tassazione, cioè noi paghiamo le tasse e le tasse che paghiamo vanno in parte anche a pagare le pensioni di chi ha smesso di lavorare o di chi non ha mai lavorato sostanzialmente, no? Come detto prima, e quindi sarebbe molto bello e divertente essere tutti più ricchi, ma i soldi dove si trovano? Il problema... Beh, intanto cominciando forse, perché ci sono, come suggerito da Cazzola, come suggerito anche dal sottosegretario al welfare, tra poco lo sentiremo, delle modalità per mettere mano a queste sperequazioni che potrebbero fare risparmiare qualche miliardata, chi Io lo sa. Io faccio presente una piccola cosa. Sì. Sicuramente ce l'auguriamo e questa è la giusta spending review previdenziale che il Paese necessita assolutamente anche con molta urgenza. Faccio presente un elemento di conoscenza che i problemi che oggi stiamo vedendo venire al pettine non sono problemi messi in campo oggi, sono stati problemi causati e provocati soprattutto nel corso della cosiddetta Prima Repubblica. Era tra Natale e Capodanno il 29 dicembre del 73 quando il governo Rumor ha emanato quel decreto che consentiva di andare in pensione con 14 anni, 6 mesi, un giorno. Oltre 2 milioni di italiani beneficiano tuttora di queste pensioni baby che costano qualche miliardo allo Stato, tra i 2,5 e 2 miliardi e 800 milioni di euro ogni anno. E il più giovane di questi che percepiscono pensioni baby quanti anni ha oggi? Mi chiedi veramente troppo, se mi chiedi anche il nome poi alzo le mani, però... No, perché è facile fare un calcolo su questo, perché loro costano queste pensioni baby tantissimo allo Stato, ma praticamente per ogni singolo individuo che ormai è un po' âgé quantomeno, incidono su con un assegno individuale che di solito, di media, ho letto in questi giorni, si aggira sui 1000 euro al mese. Ora, è chiaro che le pensioni baby sono qualcosa che grida vendetta al cospetto di Dio e ci si è messo mano anche a questo. Però, secondo me, visto che sono diverse le iniquità del nostro sistema pensionistico, mentre di quelle si è parlato e in qualche modo ci si è messo fine, si continua a sborsare ogni anno per un importo complessivo di 3 miliardi e 3, e questo gettito di denaro che va poi a beneficiare pochissimi individui, sono esattamente 33.000 questi qua, i pensionati d'oro. E ora, visto che si è sollevato questo velo di Maya, è molto importante mettere fine a questo tipo di sperequazione e soprattutto cercare di capire come farlo in sede politica. Non ci si può aspettare sempre che la Corte Costituzionale corregga quello che i parlamenti di diverse legislature, come giustamente hai ricordato tu, hanno fatto negli anni. Tra l'altro, i giudici costituzionali, ci segnala qualcuno, avranno pensioni d'oro? Una domanda che buttiamo lì per ora, andremo a rispondere tra pochissimo anche grazie all'aiuto di Mario Giordano, che di queste pensioni d'oro che ci prosciugano le tasche si è occupato da tanti anni, e vedremo proprio di questi privilegi acquisiti se toccano anche la Corte Costituzionale, se dunque è stata chiamata a pronunciarsi in conflitto di interessi. Spunti di vista, i mille aspetti dell'attualità. Sounds a little funny, digging a ditch, put up in lots of money, I dig like a fool in the land. Beh, certo, preferiremo tutti essere ricchi, come ci ricorda questa canzone degli Chicago, un altro regalo della regia. Intanto abbiamo salutato Marco Loconte, giornalista e responsabile del sito web del Sole 24 Ore. A noi si è unita Carla Ruoco, deputato del Movimento 5 Stelle, che per primo ha lanciato la campagna del tetto alle pensioni. Siamo in attesa anche di Giorgia Meloni, perché la capogruppo di Fratelli d'Italia ha inviato una lettera a tutti i capogruppo della Camera, a tutti i deputati, perché sottoscrivano una proposta di legge depositata da Fratelli d'Italia per revocare le pensioni d'oro, o meglio, siamo precisi, per fissare un tetto oltre il quale è necessario ricalcolare le pensioni con il sistema contributivo. Buongiorno, benvenuta Carla Ruoco. Buongiorno. La proposta dei 5 Stelle... Allora, intanto i 5 Stelle hanno presentato un'interrogazione appunto sul tema, e non solo, abbiamo effettuato delle ricerche, abbiamo sollevato l'attenzione dell'opinione pubblica, e da un po' di anni anche attraverso il blog che stiamo trattando questo argomento. Oltretutto io ho presentato anche una proposta di legge, perché un altro aspetto importante che fa arrivare i redditi a volte a questi livelli è il cumulo tra retribuzione e pensione, quindi ho presentato una proposta di legge del divieto di cumulo, quindi che in qualche modo non dovrebbe essere intaccato in questo caso da un'eventuale sentenza della Corte Costituzionale, quindi la politica potrebbe iniziare già da questo, da ciò che si può fare dall'oggi al domani, prendendo spunto dal nostro lavoro. E poi abbiamo fatto appunto delle ricerche, pensi che appunto i 100.000 superpensionati cui si fa riferimento, che percepiscono globalmente 13 miliardi di euro l'anno, per questo importo servono 2 milioni di lavoratori appunto per garantire l'erogazione di queste pensioni, quindi veramente si tratta di un problema da sollevare. E non solo riguarda ovviamente il discorso delle pensioni d'oro, ma come si sa ormai tutti in questo periodo dovrebbero fare un passo indietro per quanto riguarda stipendi che superino una certa soglia. Non è ovviamente un delitto essere ricchi, per carità di Dio, noi non siamo assolutamente contro chi si guadagna onestamente i propri stipendi, però è evidente che in un momento di estrema difficoltà come quello che sta attraversando l'Italia, è indispensabile che chi ha dei privilegi assolutamente per un fatto morale vi rinunzi. E infatti io mi aspettavo, dico la verità, che ci fosse anche un dietrofront volontario di questi privilegiati, esatto, della pensione allora, d'oro. Ci potrebbe essere, in passato sono stati lanciati appelli, certo. Perché no? Certo. Allora, intanto io voglio sottolineare una cosa importante: chi può impugnare dinanzi alla Corte Costituzionale un provvedimento già è ovviamente, tra virgolette, un privilegiato, perché è chiaro che magari la persona che si barcamena un po' meno bene, diciamo, nei meandri della nostra burocrazia, non può sollevare una questione del genere con la stessa agilità. Quindi già il fatto che la sentenza della Corte Costituzionale, a parte appunto l'evidente conflitto di interessi, possa essere stata sollevata, è ovvio che è più facile che riguardi privilegi importanti di casta che non ovviamente eventuali privilegi dell'uomo di strada. E a sollevarla fu un magistrato, se ricordo bene. A proposito di conflitto interessi, interrompo un attimo Ruoco solo perché c'era una domanda in sospeso. Il bilancio 2010, una domanda sulla Corte Costituzionale, cioè ha agito in conflitto interessi, al capitolo 301, il bilancio del 2010, stiamo parlando, prevede la voce pensioni dei giudici costituzionali in quiescenza. L'importo è pari a 4.570.000 euro. Peccato però che questi 4.570.000 euro vanno a coprire la pensione di 18 individui. Ecco. Quindi ognuno dei 18 giudici pensionati, qui questi sono i dati del 2010 pubblicati da Giordano nel libro Sanguisughe, e ognuno di questi giudici pensionati costa circa 20.000 euro al mese al contribuente. Ma come se non bastasse, poi questi hanno diritto all'uso dell'auto, Audi, Lancia, Alfa Romeo di solito non girano con una Ford Ka. Con tanto i chauffeur che il magistrato sia che abiti a Roma che in un'altra zona d'Italia, dunque c'è anche l'autista. Ma la cosa assurda proprio è quella delle riparazioni, perfino non solo l'assicurazione e il bollo, ma le riparazioni, le lampadine di scorta, l'acqua distillata, la pelle di daino per pulire il vetro, vengono date da noi. Com'è possibile? Com'è possibile? Allora, io non so queste persone, guardi, onestamente le dico proprio in sincerità, io non so queste persone come poi riescano a stare tranquille durante la loro giornata, perché a me come deputato arrivano tantissime lettere di disperazione dalla gente. Io vorrei fare di più di quello che facciamo. Noi abbiamo restituito i nostri stipendi e ci siamo adeguati a degli stipendi, diciamo, della pubblica amministrazione, prendiamo 5.000 euro lordi, quindi in realtà abbiamo ridotto drasticamente uno stipendio del deputato. E io vorrei anche fare di più, perché le garantisco che le lettere che arrivano sono lettere di disperazione, gente cui viene pignorata la prima casa, che perde il lavoro, che non ha, che ha famiglia, che l'Italia è in una condizione di prostrazione. Allora, al di là ed è in questa condizione, infatti, in questa situazione in cui si invitano le persone a far sacrifici, blocco degli stipendi, blocco degli scatti, non si indicizzano, diciamo così, le pensioni sotto i 1.400 euro, il costo della vita, che risulta particolarmente odioso questa situazione di iniquità delle pensioni d'oro. Però al di là della Corte Costituzionale, che la si inviti almeno a non deliberare su queste cose, visto che è evidente, secondo me, un conflitto di interessi, dal punto di vista politico, come si può e si dovrebbe procedere così che non si vada a violare la Costituzione da una parte, che parla chiaro sui diritti acquisiti, ma che in qualche modo, grazie al principio di equità che dovrebbe conformare e fare da sfondo a tutte le leggi, si colmino queste disuguaglianze? Allora, intanto la sentenza della Corte fa riferimento agli articoli 3 e 53, che appunto il principio di partecipazione in maniera progressiva e soprattutto il fatto che sia stato violato il principio di uguaglianza nella misura in cui sono stati toccati i pensionati e non tutti i dipendenti che hanno quel tipo di retribuzione. Per cui diciamo, una via d'uscita sarebbe quella di coinvolgere appunto anche gli altri che guadagnano certi livelli di stipendio nell'ambito appunto del contributo di solidarietà, cioè estenderlo a quel punto. Oppure un'altra soluzione potrebbe essere quella, a parte di un disegno di legge costituzionale che prevede a questo punto il coinvolgimento di più forze politiche, perché richiede appunto una maggioranza rinforzata, un procedimento rinforzato nell'iter parlamentare, ma vedo che tutti sono molto d'accordo, perché a chiacchiere sono tutti molto d'accordo, quindi io se si dovesse parlare di una cosa del genere si potrebbe studiare, intanto si potrebbe passare allo studio, all'analisi quantomeno, e poi e allo studio e all'analisi di chi vota contro. Visto che poi ci sono stati voti di questo tipo recentemente. Negli ultimi 20 anni comunque gli stipendi degli italiani sono rimasti fermi. Questo non solo ha ridotto. Poi concludo, perché le voglio vorrei poi suggerire un'altra eventuale via, che è la rivisitazione delle aliquote IRPEF degli scaglioni, cioè praticamente creare degli scaglioni tra virgolette più perequativi. In questo momento noi abbiamo per esempio l'ultimo scaglione che un po' assimila i redditi medio-alti ai redditi molto alti, quindi a quel punto si potrebbe, mediante una rivisitazione degli scaglioni, tra virgolette penalizzare in senso, diciamo, necessario quelli particolarmente elevati e a favore di quelli più bassi. Rivisitazione degli scaglioni IRPEF, legge costituzionale, queste le proposte che potrebbero portare a una soluzione. Anche degli stipendi dei super manager, esatto, di coloro che sono ancora in attività, perché gli stipendi degli italiani, diciamo, normali, medi, sono rimasti fermi, sono tra i più bassi in Europa, ce lo ricorda anche Walter Passerini in un libro di cui consiglio assolutamente la lettura, si intitola Senza soldi. Questo non solo ha ridotto fortemente il potere d'acquisto, ma ha creato questa generazione di working poor, cioè una generazione di persone che, pur avendo un lavoro, fanno fatica a stare al di sopra della soglia di povertà, Che vuol dire poter affrontare una spesa imprevista di 800 euro al mese? Che vuol dire potersi permettere una settimana di ferie? Che vuol dire dunque avere la possibilità anche di dedicare parte del reddito a delle attività ricreative? Questi sono elementi che insieme vanno a contribuire alla discussione su quello che sta succedendo in Italia nel sistema pensionistico. Rimanga con noi Ruoco, tra poco avremo anche Giorgia Meloni. 800 24 00 24 per le vostre opinioni. Pronto? Buongiorno. Pronto, Franco? Sì, buongiorno. Buongiorno, dica. Buongiorno. Niente, no, il discorso del vengo in vostro aiuto, nel senso che il baby pensionato è andato in pensione a 39 anni ed è Emanuela Marrone Imbossi che guadagna 766 euro lordi. Ma volevo dire a quindi lei ci cose. Sta parlando di questa questione delle baby pensioni, perché sono tanti, esatto, privilegi che si sono accumulati, esatto. Stiamo cercando, ma poi ci sta anche il discorso della pensione per un giorno, cioè ci sono dei parlamentari che per un giorno, sì, svolto dentro al Parlamento percepiscono 3.100, certo, euro lorde. Ci sono i nostri più grandi politici, Romano Prodi che prende 3 pensioni, ci sta Violante, non so, Amato, Dini, Ciampi, cioè il cumulo delle pensioni, le baby pensioni. Il cumulo delle pensioni, sì, esatto. Se lei va a sommare tutte queste cose, vedrà che sarà peggiore delle 10 pensioni più ricche. No, ma noi non stiamo parlando solo delle 10 pensioni più ricche, poi in alcuni ambiti è importante anche dare un segnale, perché lei pensi se 33.000 persone riescono ad aggiudicarsi 3,3 miliardi di euro come importo complessivo, e quando si richiede loro una sforbiciata di circa 25 milioni l'anno per 3 anni, perché tra l'altro il contributo di solidarietà aveva un termine, cioè nel 2014 doveva scadere in qualche modo. Ecco, quando si chiede loro questo tipo di contributo alla collettività, si rivolgono alla Corte Costituzionale, secondo me vale la pena di parlarne. Poi sono tutti legittimi, importanti, scandalosi anche gli ambiti che lei ha toccato, ma le baby pensioni che lei ha nominato sono circa 500.000 per un onere annuo di 9 miliardi e mezzo, e chiaramente sono state qualcosa che ha non solo fatto parlare, sono state naturalmente il prodotto di un meccanismo clientelare che ha fatto sì che per anni si perpetuasse una certa classe politica. C'era qualcuno che andava a bussare alle porte dei contribuenti in Italia, ma poco meno di 20 anni fa, 30 anni fa, non stiamo parlando della preistoria, chiedendo: volete una pensione? Vi serve una pensione? Quanti di voi ricordano campagne elettorali proprio improntate a questo tipo di promessa? Ebbene, oggi ne stiamo inevitabilmente pagando le conseguenze. Ma sono diversi gli aspetti, dicevo, Franco, non per questo li vogliamo trascurare, ma vogliamo oggi cercare di capire insieme a voi se su questo speciale filone c'è qualcosa che si possa fare per finalmente correggere la rotta. Spunti di vista. I mille aspetti dell'attualità. Io ho 22 anni, ci scrive un ascoltatore. Non riguarda me, ovviamente, al 349-238-6666. Ebbene, ho 22 anni e non voglio pagare con il mio lavoro i privilegi concessi prima che nascessi. E sono di questo tenore le preoccupazioni dei giovanissimi che ci segnalano di lavorare a 400 euro al mese, anche con la laurea. Insomma, un esercito sterminato di quelli che definivamo working poor. Come si è riaperto il filone delle pensioni d'oro in questi giorni? C'è stata un'interrogazione parlamentare, Deborah Bergamini del PDL l'ha presentata, e oggi non poteva partecipare alla nostra trasmissione, e c'è stata poi una risposta, naturalmente, che ha portato ancora una volta, alcuni hanno detto con sorpresa, altri hanno detto si conoscevano benissimo queste situazioni, però è importante tornare a vedere ciò che non è stato risolto in passato. E Carlo Dell'Aringa, cioè il sottosegretario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha risposto a questa interrogazione. Sentiamolo ai nostri microfoni ieri. Certamente è stato fatto un tentativo in passato di porre, diciamo così, dei contributi di solidarietà, cioè di passare le pensioni molto elevate, ma questo è stato bocciato dalla Corte Costituzionale sulla base del principio che un prelievo di natura tributaria, come era stato quello tentato in passato, corre il rischio di cozzare contro l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla tassazione, nel senso che la Corte ha detto: ma non si capisce perché a parità di reddito voi tassate in modo diverso due cittadini, uno perché ha la pensione e l'altro perché magari ha un reddito da lavoro, magari da lavoro dipendente autonomo. E la convince? Voi, la convince questa spiegazione? Sì, perché nel limite in cui diciamo quel prelievo assume le caratteristiche di un'imposta sul reddito, l'obiezione è inevitabile e fondamentale, giustificata. C'è dubbio che i dati anche che insomma sono emersi dall'INPS, io non ho fatto altro che esporre i dati che forniti dall'INPS di fronte a una interrogazione parlamentare. Quei dati, in effetti, in un periodo di crisi, in un periodo in cui si parla di esodati, di persone che fanno fatica ad andare avanti perché rischiano di essere senza pensione, senza reddito. E di persone, attenzione, i cui diritti acquisiti proprio in nome di questa crisi sono stati toccati. Ecco, infatti, questo è un punto delicato, in effetti è questo. Un aspetto può essere questo dei diritti acquisiti. Allora, un riordino del sistema pensionistico perlomeno dovrebbe partire da un calcolo molto semplice. E cioè, visto che noi siamo entrati ormai in un sistema contributivo, per cui le pensioni riflettono l'ammontare dei contributi versati, rivalutati e tutto quanto, bisogna capire se a fronte di queste pensioni molto elevate ci sono contributi pagati da questi pensionati che giustifichino questi livelli elevati delle pensioni, perché probabilmente in alcuni casi si vedrebbe che a fronte di contributi magari limitati le pensioni sono molto elevate. I rendimenti. E abbiamo sentito questo, quanto è successo con la Corte Costituzionale, l'avevamo già percorso questo passaggio nel corso della trasmissione. Lui era Carlo Della Ringa, il sottosegretario del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, brevemente ribattezzato Welfare. Buongiorno a Giorgia Meloni. Buongiorno a voi. Benvenuta, in sua assenza naturalmente abbiamo dato voce a tante possibili, soprattutto vie d'uscita. Lei cosa ha fatto per sanare questa iniquità delle pensioni d'oro? Voglio ricordare tra l'altro capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. Ma guardi, intanto voglio dire che sono contenta che finalmente l'Italia si accorga di questa vergogna, perché io lo vado denunciando da circa 2 anni ormai. E non sa quante volte mi sia sentita rispondere che era falsa la notizia secondo la quale in Italia sarebbe esistita addirittura una pensione da 90.000 euro al mese. Sono contenta che cambiando la fonte si sia anche stabilito che invece la notizia era una notizia vera e credibile. Dopodiché io ho fatto di tutto, da fare la battaglia col ministro Fornero nella scorsa legislatura perché venisse confermato il contributo di solidarietà, e se poi mi consente voglio dire una cosa sulla sentenza della Corte Costituzionale sulle pensioni d'oro, fino in questa legislatura a fare ben 2 interrogazioni in question time al ministro del lavoro Giovannini, che sono, diciamo, si possono tranquillamente vedere sul sito della Camera dei Deputati, fino a depositare una proposta di legge anch'essa passata in totale silenzio, che è esattamente quello che diceva il sottosegretario prima, e cioè che stabilisce un tetto oltre il quale bisogna calcolare quali contributi si siano versati. Tu prendi una pensione di 30.000 euro al mese, di 20.000 euro al mese, di 15.000 euro al mese, perfetto, io stabilisco un tetto che può essere, diciamo, 10 volte la pensione minima, 5.000 euro al mese. Sopra quel tetto hai versato i contributi per prendere la parte eccedente? Sì, la prendi. Non l'hai versati? Non la prendi. E la parte eccedente la taglio e ci faccio un fondo per aiutare le pensioni minime, le pensioni di invalidità e i giovani per l'ingresso nel mercato del lavoro. A me sembra una norma di civiltà che certo potrebbe essere anche dichiarata incostituzionale, ma temo sarebbe dichiarata incostituzionale, come è stato dichiarato incostituzionale il prelievo di solidarietà, non già perché lo sia davvero, ma perché i giudici della Corte Costituzionale sono tutti pensionati d'oro, perché vede la sentenza della Corte Costituzionale... E questo, di questo abbiamo parlato prima che lei si collegasse con noi, esattamente, di questa possibilità di esprimersi su questi temi in conflitto di interessi, perché... Avete fatto bene, perché è un vero tema, però chiedo scusa, solo per dire nel merito della sentenza, siccome io non sono d'accordo col segretario, col sottosegretario che dice che la sentenza è condivisibile ed è giusta. Primo, non è vero che i redditi da lavoro possono essere accumulabili ai redditi da pensione, soprattutto alla pensione, chiedo scusa, soprattutto se la pensione è calcolata col sistema retributivo. Perché nel caso del lavoro sono soldi che io guadagno, nel caso di una pensione calcolata col sistema retributivo sono soldi calcolati su una media, ok? Quindi non è la stessa cosa. Secondo, il Carlo Berlusconi aveva fatto identico prelievo di solidarietà anche sui redditi, guardi un po', la Corte Costituzionale aveva già dichiarato incostituzionale. Terzo, se davvero siamo così attenti a che gli italiani vengano tassati tutti alla stessa maniera, allora perché non si è dichiarato incostituzionale l'ingresso del sistema contributivo, cioè di un sistema che a fronte di gente che prende pensioni che riguardano l'80% delle ultime retribuzioni e pensioni da 10, 20, 30, 40 mila euro condannava intere generazioni a non avere mai una pensione decente? E perché non abbiamo dichiarato incostituzionale il blocco dell'indicizzazione delle pensioni da 1.400 euro, esatto, già che non bloccavamo, cioè, anche l'indicizzazione dei redditi? Alcune cose. E io non sono giudice della Corte Costituzionale, no, voglio dire, sono domande di buon senso. Di buon senso che si sono fatti in molti, perché si parla di diritto acquisiti e poi ci segnalano gli ascoltatori, anche quelli degli esodati erano diritti acquisiti, perché lì si è potuto intervenire. Bravi. Rimanga con noi perché c'è qualcuno tra i nostri ascoltatori che vuol farle una domanda. Pronto, Giovanni, buongiorno, devo invitarla alla sintesi. Sì, buongiorno. Dica. Sinteticamente, volevo ricordare alla parlamentare che ha parlato adesso. Sì, Meloni. Il contributivo non è, sì, la Meloni, mi ricordavo. Il contributivo non è una media, è la media dell'ultimo anno, poi è diventata la media degli ultimi 5 anni e poi la media degli ultimi 10. Perciò è chiaro che se uno va in pensione con una, cioè se va in pensione con uno stipendio alto, diventa altissimo. Volevo solo ricordarvi che Andreotti aveva messo il tetto alle pensioni e nel 1988 è stato revocato, ma per via politica, nessun giudice ce l'ha messo il becco via. Perciò se l'aveva fatto Andreotti forse si può fare ancora. Grazie Giovanni. Giorgio Meloni. Beh sì, no, intanto è giustissimo quello che dice l'ascoltatore, anche se il riferimento al sistema retributivo non al sistema contributivo. Il problema c'era è esattamente questo. C'è stata una confusione. Il sistema retributivo era un sistema, diciamo, molto più agevole, molto più positivo di quello che poi è stato il contributivo, perché di fatto tu andavi in pensione con l'80% di media delle ultime retribuzioni e ci andavi a un'età, 58 anni di media, ma con punte che noi conosciamo, perché poi ci sarebbero tutta la questione dei baby pensionati, di quelli che sono andati in pensione dopo un giorno di lavoro, di quelli che ci sono andati dopo 10 anni, di quelli che ci sono andati a 40 anni, a 29 anni addirittura. Rimaniamo, c'è tutta la questione per dei oggi, delle pensioni. Rimaniamo per oggi su questa questione delle pensioni d'oro. Lei ha indicato una strada, diciamo così, per aggirare quella questione costituzionale sollevata sul contributo di solidarietà. Allora in molti hanno detto dimentichiamoci questo contributo di solidarietà. La risposta deve essere politica. Certo, ma infatti io ho depositato una proposta di legge che non riguarda il contributo di solidarietà. Sul tema del contributo di solidarietà avevo fatto una battaglia nella scorsa legislatura, ma in realtà il contributo di solidarietà era quello che ero riuscita ad ottenere nella mia battaglia per l'abrogazione delle pensioni d'oro quando il governo Monti fece la riforma delle pensioni. Chiaro. E alla fine ottenni solamente quel contributo lì. Dopodiché io ho depositato una proposta di legge che si occupa di queste pensioni, delle pensioni in essere, perché io... E lei vuole vedere un'adesione trasversale, ha inviato una tra tutti i capigruppi della Camera. Un ascoltatore ci scrive: attenzione al rispetto delle leggi, anche la schiavitù era conforme alla legge. Molto interessante. Grazie a tutti i nostri ospiti, speriamo da qui a breve di poter tornare su questo tema con una strada che venga indicata da chi ci rappresenta in Parlamento. Per oggi ci fermiamo, ritorniamo lunedì insieme con Spunti di Vista. 58 minuti trascorsi dopo le 9, la linea ora alle notizie. Buon fine settimana da Irene Zerbini.